farcela. Servono 12 esplosioni nucleari per provocare una reazione a catena che distrugga l'asteroide ed eviti che ci venga addosso. Siamo oltre il tempo previsto. Alan ha bisogno di almeno 110 secondi per allontanarsi prima dell'esplosione. La ritardi di 40 secondi. Non possiamo. Dobbiamo distruggere quell'asteroide. Se si avvicina ancora, rischiamo di essere colpiti dalle radiazioni dell'esplosione. Ritardi l'esplosione di 40 secondi. Alan, le cariche devono saltare entro 2 minuti. Può farcela? Lo spero, comandante. Alan! Non faccia il perfezionista. Scarichi e venga via. Il motore dell'Argano si è inceppato! Il tempo sta scadendo. Alan, quella carica ci serve là. Se no, moriamo tutti. Funziona! È andata! Siamo al limite massimo. Mancano 10 secondi. 9. Ritardi altri 10. Quindici secondi all'esplosione. Alan, le restano 13 secondi. Grazie. Auguri. Allarme rosso! Allarme rosso! Allarme rosso! Allarme rosso! Allarme rosso! Allarme rosso! Allarme rosso! Allarme rosso! Allarme rosso! Allarme rosso! pesanti radiazioni. 5, 4, 3, 2, 1, contatto. Aquila 1, mi ricevi? Rispondi, Aquila 1. Non aveva molte probabilità. No. Un rapporto dalle sezioni sui danni. Stanno arrivando, comandante. Aquila 1. Aquila 1, mi ricevi? Alan, non mi sente? Schermi antiradiazioni al massimo. Confermata massima potenza. Sperando solo che gli schermi non cedano. E già tanto se reggono ancora. Merito di Alan. Aquila 1. Aquila 1, rispondi. Alan, mi riceve? John. Fare così non serve a nessuno. Sandra, che dice la telesonda? Sta fornendo dei dati senza senso. Devono essere le radiazioni. E i nostri satelliti di osservazione? Le onde radio non riescono a superare la nube radioattiva. Danni strutturali alla sezione B4. Il computer segnala perdite di potenza negli edifici dell'abitazione C e D. Il centro medico segnala 14 feriti. Le radiazioni? No, normali contusioni e feriti. Chiami ancora Alan. Aquila 1, rispondi. Potrebbe aiutarlo a sapere che siamo ancora lì. Alan, mi senti? John, calmati. Victor, se vuoi dirmi che ho deciso male, dimmelo chiaramente. Se vuoi dirmi che è inutile tentare di salvare Carter perché le radiazioni lo impediscono, dimmelo. Ma se invece vuoi dirmi che Alan là nello spazio non vive più, non voglio sentirlo dire. La tua è stata una decisione umana, John. Nessuno di noi avrebbe deciso in altro modo. Ma ora dobbiamo affrontare una situazione nuova. Con ben poche soluzioni. Aquila 1, mi ricevi? Alan, mi senti? Ecco qua. Riceviamo ancora il segnale di identificazione del nostro satellite orbitale. Sì, ma è su una banda di frequenza interstellare. Esatto. E Alan non ce l'ha. Già. Ma se noi mandiamo un'aquila fornita di questa frequenza oltre la nube, possiamo stabilire un contatto triangolare tra lei, Alan e Alpha. Paul, attrezzi subito un'aquila a questo scopo. Se Alan è là fuori, noi lo troveremo. Comandante, già qui rischiamo le radiazioni. Se poi un'aquila deve passare attraverso la nube... Alpha ha gli schermi antiradiazione e anche le aquila. Servono solo a certi tipi di radiazioni su cui sappiamo tutto. Ma lì si tratta di radiazioni sulle quali non sappiamo assolutamente niente. Victor, se Alan non c'è più, voglio averne le prove. Paul, un'aquila sulla rampa 2. La rampa 2 è danneggiata. La 4 potrebbe funzionare. Fatela funzionare! 4 spie rosse rimaste accese nel circuito secondario. Ma non è grave. Possiamo anche ignorarle. D'accordo. Allora siamo in grado di decollare? Quando vuole. Bene. Sala comando, parla Koenig. Stiamo decollando. Visibilità zero. Senza strumentazione, con visibilità zero, senza un'idea di dove sia Alan. E non sappiamo neanche se sia ancora vivo. È una sfida alla logica. Sì. Ma l'uomo spera sempre. Ma l'uomo spera sempre. Ma l'uomo spera sempre. È una sfida alla logica. È una sfida alla logica. È una sfida alla logica. È una sfida alla logica. Ma l'uomo spera sempre. Ma l'uomo spera sempre. Ma l'uomo spera sempre. Ma l'uomo spera sempre. Ma l'uomo spera sempre. Ma l'uomo spera sempre. Ma l'uomo spera sempre. Ma l'uomo spera sempre. Ma l'uomo spera sempre. Ma l'uomo spera sempre. Ma l'uomo spera sempre. Ma l'uomo spera sempre. Ma l'uomo spera sempre. Ma l'uomo spera sempre. Ma l'uomo spera sempre. Ma l'uomo spera sempre. Ma l'uomo spera sempre. Ma l'uomo spera sempre. Ma l'uomo spera sempre. Ma l'uomo spera sempre. Ma l'uomo spera sempre. Ma l'uomo spera sempre. Ma l'uomo spera sempre. Ma l'uomo spera sempre. Ma l'uomo spera sempre. Ma l'uomo spera sempre. Ma l'uomo spera sempre. Ma l'uomo spera sempre. Ma l'uomo spera sempre. Ma l'uomo spera sempre. Ma l'uomo spera sempre. Ma l'uomo spera sempre. Ma l'uomo spera sempre. Ma l'uomo spera sempre. Ma l'uomo spera sempre. Ma l'uomo spera sempre. Ma l'uomo spera sempre. Ma l'uomo spera sempre. Ma l'uomo spera sempre. Ma l'uomo spera sempre. Ma l'uomo spera sempre. Ma l'uomo spera sempre. Ma l'uomo spera sempre. Ma l'uomo sp Chiamo Aquila 1. Chiamo Aquila 1. Aquila 1, rispondi. Aquila 1, ci ricevi? Insista. Aquila 1, rispondi. Aquila 1, ci senti? Alan, puoi darmi le tue coordinate? Stiamo venendo a riprenderti. Aquila 1, mi senti? Stai meglio, vero? Ormai sei in salvo. Ormai sei in salvo. Ormai sei in salvo. Ormai sei in salvo. Ormai sei in salvo. Ormai sei in salvo. Ormai sei in salvo. Ormai sei in salvo. Stai meglio, vero? Stai meglio. Aquila 1. È vivo. Paul l'ha sentito. Alan è vivo. Alan, sono Paul. Siamo su Aquila 4. Dacci la tua posizione. Alan, sono Paul. Mi hai sentito? Aquila 1, mi ricevi? Non ci ricevi. Beh, calcoli la posizione. Mi dia la rotta. Le coordinate orbitali del tuo amico sono 3, 4, 9. Rotta calcolata e programmata. Ma non ho ancora la sua posizione. Ce l'ho io. Eccolo. Pronto, Alfa. L'abbiamo trovato. Va alla deriva ai bordi della nube. Non ha molti danni. Bel colpo, John. Procediamo per l'aggancio. Buona fortuna. Manovra di aggancio calcolata e programmata. Inserisci la manovra di aggancio sul computer. Confermato. Sicure d'aggancio. Ecco, ce l'abbiamo fatta. Carter ha fatto una manovra perfetta. Non può essere ferito grave. Mantenga l'assetto, io vado a vedere. sarà la tua gente a prendersi cura di te. Chi sei? Un'amica. Paul! E Carter? È vivo, ma svenuto. Lo sforzo per la manovra deve essere stato eccessivo. Oh mio Dio. Comandante. Comandante, cosa c'è? Comandante! Comandante! Rientriamo subito. Perché? Un pianeta in rotta di collisione. Gli finiremo addosso. Ha una massa enorme. Stavolta non ce la caviamo, Paul. Grazie, Paul. Resti lì finché arriva il medico. Poi venga nel mio ufficio. Lavaggio decontaminante? No, lasci stare, non c'è tempo. Helen. Sì, John? Niente controlli, siamo in pericolo. Ci vorrà solo un momento, la squadra medica è già pronta. Fammi passare, ci sono cose urgenti. Dottore, è sano. Carter è sull'Aquila, con Morrow. Cano? Sì? Raccolga tutti i dati che fornisce il computer e me li passi prima che può. Victor, siamo in pericolo. Sì, e se tu non fossi andato là fuori, ci saremmo accorti di quel pianeta troppo tardi. E forse era meglio, non sarebbe stata un'agonia. Calma, fammi pensare. Un'altra bella notizia, eh? Alan, come va? Puro come un giglio. Niente radiazioni? No, niente. Niente radiazioni? No, niente. Niente radiazioni? No, niente. Niente radiazioni? No, niente. Niente radiazioni? No, niente. Niente radiazioni? No, niente. Niente radiazioni? No, niente. Niente radiazioni? No, niente. Niente radiazioni? Niente radiazioni? Niente radiazioni? Niente radiazioni? Niente radiazioni? Niente radiazioni? Niente radiazioni? Niente radiazioni? Niente radiazioni? Niente radiazioni? Niente radiazioni? Niente radiazioni? Niente radiazioni? Niente radiazioni? Niente radiazioni? Carica nucleare in posizione. Carica nucleare in posizione. Carica nucleare in posizione. Carica nucleare in posizione. Carica nucleare in posizione. Carica nucleare in posizione. Carica nucleare in posizione. Carica nucleare in posizione. Carica nucleare in posizione. Carica nucleare in posizione. Carica nucleare in posizione. Carica nucleare in posizione. Niente radiazioni. Niente radiazioni. Niente radiazioni. Niente radiazioni. Niente radiazioni. Niente radiazioni. Niente radiazioni. Niente radiazioni. Niente radiazioni. Niente radiazioni. Niente radiazioni. Niente radiazioni. Niente radiazioni. Niente radiazioni. Niente radiazioni. Town. This ain't no while now, they all been put down. si può fare per evitarlo? Una cosa è certa. Non potremo distruggerlo come l'asteroide. Ritengo che sia 30 volte più grande della Luna. 34! Ed è su una rotta di collisione. L'impatto avverrà tra 105 ore e circa 13 minuti da adesso. Sta male. Ma le aquile hanno gli schermi protettivi. Lo so, ma ci è rimasto più di 3 ore in quella nuvola. Sarebbe strano se le radiazioni non l'avessero colpito. Ho un'idea. Cambiamo la nostra traiettoria con un'esplosione sulla faccia opposta della Luna. Julian, continui. Tenga. Ricreiamo volutamente le condizioni che ci spinsero fuori dall'orbita intorno alla Terra. Lasciamo che sia quel pianeta a farci saltare in aria. Quella volta la scampammo. Fu un miracolo. E non è un miracolo quello in cui speriamo oggi. Sì, ma non chiedere al computer di farlo. Senti. Oh, basta. Ti serve un piano realistico per evitare il disastro. Non c'è tempo per litigare. John, ascolta un momento. Il principio a cui si ispira l'idea di Paul è giusto. Noi dobbiamo cambiare la nostra traiettoria relativa al pianeta, ma possiamo riuscirci in un altro modo. Ecco, potremmo creare una forza, un campo di forze tra noi e quel pianeta, predisponendo una serie di cariche nucleari, delle mine ferme nello spazio, e provocare un'onda d'urto tra la Luna e il pianeta che riesca ad allontanarli, a variare la loro traiettoria. È un progetto sensato. Ed è l'unica possibilità. Sì, mettiti al lavoro. Prepara un piano dettagliato. Sandra, qualche dato sul pianeta? Sì, ha un'atmosfera. Continua. Non è quella ideale. Respirabile? Forse potremmo viverci. L'escursione termica va da un massimo di circa 10 gradi centigradi a meno 30. Sono quasi sicura che qualche forma di vita esiste. Già, ma quale forma di vita? Bombarderemo quel pianeta con tutti i segnali di comunicazione che conosciamo. Dimentica un particolare. E siamo ancora isolati dalla nube radioattiva. Tutte le informazioni che abbiamo le ha registrate il computer della mia astronave. Se vogliamo altri dati su quel pianeta, dobbiamo fare una ricognizione. John, se quel pianeta è abitabile, seppure non in condizioni ideali, potremmo evacuare tutti sulla sua faccia opposta. Già. Ma c'è da chiedersi come resisterà alla collisione con la Luna. Adesso vuoi sapere troppo? Victor, facciamo così. Io vado a dare un'occhiata a quel pianeta. Tu intanto pensa a predisporre l'esplosione. Se il pianeta risultasse abitabile, dovremo decidere all'istante se ci conviene evacuare oppure no. Chi sei? Un'amica. Perché vieni da me? Dove provieni? Adesso sei in salvo. Chi sei? Chi sei? Arra! Dove sei? Aspetta! Non lasciarmi! Presto! Portami con te! Portami con te! Portami dalla tua gente! Bob! Dove sei? Su, calmo, calmo! No! Non è niente! Una serie di cariche nucleari, una serie di cariche nucleari, una serie di cariche nucleari, una serie di cariche nucleari, una serie di cariche nucleari, di cariche nucleari, di cariche nucleari, di cariche nucleari, di cariche nucleari, di cariche nucleari, di cariche nucleari, di cariche nucleari. Niente radiazioni? No, niente. Niente radiazioni? No, niente. Niente radiazioni? No, niente. Niente radiazioni? No, niente. Niente radiazioni? No, niente. Niente radiazioni? No, niente. Niente radiazioni? No, niente. Niente radiazioni? Niente radiazioni? Niente radiazioni? Niente radiazioni? Niente radiazioni? Niente radiazioni? Niente radiazioni? Niente radiazioni? Niente radiazioni? Niente radiazioni? Niente radiazioni? Niente radiazioni? Niente radiazioni? Niente radiazioni? Carica nucleare in posizione. Fucking on in sire! No, I can't be chilling, pet! Fuck, I'll be jumping on my skin! I ain't got a belly, you can ding! Jumping on my shopping on the floor! Barely even made it out the door! Everyone's a such a lovely bloke! Ah, get your fucking head into the road, cunts! Hey, I'm walking here! Do you really think you're really it? In your belly, on your hood, rich! I wish I could see it by the curb! I wish I could see it, shit! Stupid on the bus that you are! Fucking screw up the path! I'm about to come in as all fuck! Sorry, I'm a super weapon, I'm full! What? Hey, I'm walking here! You make me wanna act violently! You make me wanna act. Una mano. Che sta succedendo? Allucinazioni, disorientamento, tutti i sintomi classici del male da radiazione. È rimasto colpito. Ma no, non è possibile. L'esame era negativo. È un errore e probabilmente lo è anche per te. Evan. Era svenuto. Sognava. Sarà stato un incubo. Non è stato un incubo. Ma come fai ad esserne così sicura? Perché conosco il mio mestiere. Senti, tranne Alan, tu e Paul vi siete esposti più degli altri. Ma io non ho allucinazioni. Forse la mia reazione è eccessiva, ma anche la tua diagnosi. La mia diagnosi è basata sull'esperienza. E certo il tempo non mi aiuta molto. Un esame completo richiede tempo, John. Ma sono convinta che Alan è rimasto colpito e se ho ragione, anche per te c'è questo sospetto. E senti, Alan. Sì, Paul? L'Aquila per la ricognizione è pronta sulla rampa 4. Il copilota Pierre Daniel è già a bordo. Grazie, Paul, ma vado solo. Non uscirai un'altra volta. Non preoccuparti, mi metto la maglia di lana. Non preoccuparti, non preoccuparti, non preoccuparti. Non preoccuparti, non preoccuparti. Non preoccuparti, non preoccuparti. Mi metto la maglia di lana. Mi metto la maglia di lana. Mi metto la maglia di lana. Mi metto la maglia di lana. Mi metto la maglia di lana. Mi metto la maglia di lana. Mi metto la maglia di lana. Mi metto la maglia di lana. Mi metto la maglia di lana. Mi metto la maglia di lana. Mi metto la maglia di lana. Non preoccuparti. Mi metto la maglia di lana. Non preoccuparti. Mi metto la maglia di lana. Non preoccuparti. Mi metto la maglia di lana. Non preoccuparti. Mi metto la maglia di lana. Non preoccuparti. Mi metto la maglia di lana. Non preoccuparti. Mi metto la maglia di lana. Non preoccuparti. Mi metto la maglia di lana. Non preoccuparti. Mi metto la maglia di lana. Non preoccuparti. Mi metto la maglia di lana. Non preoccuparti. Mi metto la maglia di lana. Non preoccuparti. Mi metto la maglia di lana. Non preoccuparti. Mi metto la maglia di lana. Non preoccuparti. Mi metto la maglia di lana. Non preoccuparti. Mi metto la maglia di lana. Non preoccuparti. Mi metto la maglia di lana. Non preoccuparti. Mi metto la maglia di lana. Non preoccuparti. Mi metto la maglia di lana. Non preoccuparti. Mi metto la maglia di lana. Non preoccuparti. Mi metto la maglia di lana. Non preoccuparti. Mi metto la maglia di lana. Non preoccuparti. Mi metto la maglia di lana. Non preoccuparti. Mi metto la maglia di lana. Niente radiazioni. Niente radiazioni. Niente radiazioni. Niente radiazioni. Niente radiazioni. Niente radiazioni. Niente radiazioni. Niente radiazioni. Niente radiazioni. Niente radiazioni. Niente radiazioni. Niente radiazioni. Niente radiazioni. Carica nucleare in posizione. Sala comando. Vi sto chiamando sulla frequenza interstellare. Com'è l'ascolto? Molto forte e molto chiaro. Sembra che la nube si stia dissolvendo. I dati del computer di Sandra lo confermano. Riceviamo le informazioni e le registriamo. Novità per l'operazione Onda d'Urto? Il professor Bergman ha già fatto i primi calcoli. Sembra attuabile. Bene. Appena Victor ha finito, cominciate a piazzare le cariche nucleari nello spazio. Qui sala comando, ricevuto. Professore, è soddisfatto? Tutt'altro, Paul. Comunque la cosa sembra possibile. Allora procediamo. Direi di sì. Il pianeta è abitato. La vediamo, comandante. Inserisca la telecamera a lungo raggio. Un'astronave gigantesca viene dritta su di me. Ha una velocità incredibile. Dirotto per evitarla. Mi attira verso di sé. E i motori non rispondono più. Ma che aspetta ad aprire il fuoco? Se l'astronave ha tanta potenza da attirarlo a sé, ne ha anche per bloccargli i laser. Cominciate a piazzare le cariche nucleari nello spazio. Non preoccuparti. Non preoccuparti. Non preoccuparti. Non preoccuparti. Non preoccuparti. Cominciate a piazzare le cariche nucleari nello spazio. Cominciate a piazzare le cariche nucleari nello spazio. Cominciate a piazzare le cariche nucleari nello spazio. La mia diagnosi è basata sull'esperienza. La mia diagnosi è basata sulla mia esperienza. La mia diagnosi è basata sulla mia esperienza. La mia diagnosi è basata sulla mia esperienza. La mia diagnosi è basata sulla mia esperienza. La mia diagnosi è basata sulla mia esperienza. La mia diagnosi è basata sulla mia esperienza. La mia diagnosi è basata sulla mia esperienza. La mia diagnosi è basata sulla mia esperienza. La mia diagnosi è basata sulla mia esperienza. Aquila 4. Rispondi, Aquila 4. Qui sala comando. Ci ricevi? Aquila 4, rispondi. Niente, non ricevo neanche i segnali dagli strumenti di bordo. Cosa facciamo? C'è una vaga possibilità che sia ancora vivo a bordo di quell'astronave. Non possiamo attaccare. Che possiamo fare? La loro tecnologia è molto più avanzata della nostra. Procediamo con l'operazione Onda Dura. Perlomeno dobbiamo continuare con la preparazione. Va bene. La riunione per l'operazione Onda Dura avrà luogo. Cominciamola subito nell'ufficio del comandante. Continuate a chiamare e se ci sono novità avvertitemi subito. Base Alfa, mi sentite? Sala comando, qui è Koenig, mi sentite? Mi sentite? La mia diagnosi è basata sull'esperienza. Non preoccuparti, mi metto la maglia di lana. Non preoccuparti, mi metto la maglia di lana. Niente radiazioni. La mia diagnosi è basata sull'esperienza. No me quiera chamaquear. Que me quieres ayudar, ¿qué es lo que me vas a dar? No nos vamos a dejar, sobre mí quieres pasar, quieres que vaya a votar, que te quieres postular, pa' poderme gobernar, Da, da, da, de torcí. Era molto tempo che aspettavo di incontrarti, John Connick. Chi sei? Sono Arra, regina di Artaria. Artaria? Il pianeta diretto verso di voi e che ha terrorizzato te e la tua gente. Sono milioni e milioni di anni che vi stiamo aspettando. Perché il vostro destino è sempre stato anche il nostro destino. Ma com'è possibile questo? È stato solo un problema di tempo prima che incontrassimo John Connick. Il nostro incontro mi sembra casuale. La nostra luna fu scagliata fuori dall'orbita da un'esplosione nucleare. Fu un incidente imprevisto. Povero John Connick. Come sottovaluti il tuo peso nel grande piano degli eventi? E come piccolo il tuo corpo per essere tu così grande? Vorrei poter almeno conoscere il mio peso nel piano degli eventi. I nostri due pianeti si sono incontrati all'interno del tempo per poter consentire i grandi mutamenti. Noi cambieremo totalmente. E il cambiamento continuerà a propagarsi attraverso le galassie e gli universi per l'eternità. Tu e io non siamo che due goccioline vitali nello sconfinato oceano del tempo. E il nostro incontro ha uno scopo. Non possiamo tradire il nostro destino. Sul problema del destino dell'uomo, non potresti dirmi di più? Che cosa succederà a tutti noi? Voi continuerete il vostro viaggio. La vostra odissea non conoscerà mai fine. Vi moltiplicherete nel benessere di nuovi mondi, di nuove galassie. Andrete a popolare le zone più remote dello spazio. La razza alla quale io e la mia gente apparteniamo dovrà mutare. Dovremo assumere un'altra forma, certo irriconoscibile, spirituale se vuoi, ma una volta mutati diventeremo essenze immutabili per un tempo inimmaginabile. E io cosa devo fare per facilitare tutto questo? Niente.

È proprio così. Intenzionalmente o no, quell'astronave si è fermata esattamente nel punto dove abbiamo progettato di mettere le cariche nucleari per l'operazione Onda d'Urto. Quanto tempo ci resta? Le Aquila con le cariche nucleari dovrebbero muoversi adesso. Tania, comunica a tutte le Aquila di tenersi pronte al decollo. Sì, Paul, rifletti. John è ancora dentro quell'astronave. Lo sappiamo tutti. Grazie. Sala, comando a tutte le Aquila in decollo. Dirigetevi verso l'astronave sconosciuta. Le coordinate per le cariche nucleari vi saranno comunicate fra poco. Non c'è altra via. No, che io sappia. La tua gente si preoccupa di te in modo pericoloso. Stanno elaborando piani complicati per distruggere questa astronave. Come fai a saperlo? Sento i loro pensieri e le loro parole. E anche i calcoli senza pensiero dei vostri computer. Questa iniziativa deve cessare. Nessuno deve fare niente. Tu mi chiedi di persuaderli a non muoversi. D'accordo, ma come? Vogliono fatti, ragioni e spiegazioni logiche. Sono esseri dalla mente logica. Ma c'è un modo. Se tu vieni con me, mi aiuterai a convincerli con la tua sola presenza. Non posso venire con te. Noi due abbiamo un ruolo da sostenere. Il tuo consiste nel non fare niente. E io... qui ho molto da fare. Quello che dici suona meraviglioso qui. In questo ambiente. È detto dalle tue labbra. Ma che effetto farà sulla base lunare Alfa? Non mi crederanno mai. Già pensano che io sia stato colpito dalle radiazioni. Sono più che certo che non mi crederanno. Sarà una controprova della tua autorità. Non sei adatto per la parte alla quale sei stato destinato fin dal principio del tempo. Ma io ho fiducia in te, John Koenig. Anch'io ho fiducia in te. Ma che cosa può la fiducia contro la realtà di una collisione? Devo sapere di più, devo sapere quello che farai tu. Io vado a dare forma al futuro dell'eternità. E ho bisogno del tuo aiuto. Vogliono fatti, ragioni e spiegazioni logiche. Vogliono fatti, ragioni e spiegazioni logiche. Vogliono fatti, ragioni e spiegazioni logiche. Vogliono fatti, ragioni e spiegazioni logiche. Vogliono fatti. Ragioni e spiegazioni logiche. Vogliono fatti. Ragioni e spiegazioni logiche. Vogliono fatti. Ragioni e spiegazioni logiche. Vogliono fatti. Ragioni e spiegazioni logiche. Vogliono fatti. Ragioni e spiegazioni logiche. Vogliono fatti. Ragioni e spiegazioni logiche. Vogliono fatti. Ragioni e spiegazioni logiche. La mia diagnosi è basata sull'esperienza. La mia diagnosi è basata sull'esperienza. La mia diagnosi è basata sull'esperienza. La mia diagnosi è basata sull'esperienza. La mia diagnosi è basata sull'esperienza. La mia diagnosi è basata sull'esperienza. La mia diagnosi è basata sull'esperienza. La mia diagnosi è basata sull'esperienza. La mia diagnosi è basata sull'esperienza. Niente. Vogliono fatti. Ragioni e spiegazioni logiche. dare forma al futuro dell'eternità. E ho bisogno del tuo aiuto. Del tuo aiuto. Del tuo aiuto. Paul! Base Alfa! Base Alfa! Qui è Koenig! La sentiamo, comandante. Tutto bene? Benissimo. Sospendete subito tutte le operazioni. Ripeta, prego. Ripeto, annullate l'operazione Onda d'Urto. Fate rientrare le Aquila. E quel che più conta, non fate niente finché rientro. Ripeto, niente fino al mio rientro. Sì, signore. Non mi credete, eh? Lo so che è incredibile. Ma io ho fiducia in quell'essere, gli credo. Comandante, la nube radioattiva si è dissolta. I dati che riceviamo sono precisi. Kano li ha controllati due volte sul computer. Il risultato è che fra meno di 7 ore avverrà l'impatto. A meno di non provocare l'onda d'urto. Le cariche sono state piazzate, il conto alla rovescia procede. E sarebbe una vera pazzia fermarlo. È questo che vuole? Esatto, è questo che voglio. Allora lei è pazzo. Paul! Ma comandante, è un caso senza alternative. O facciamo un tentativo per salvarci o moriamo tutti. Qual è la differenza tra questa situazione ed altre che abbiamo già affrontato? Arra. E allora deve dirci cosa farà questa Arra. Ho detto che non lo so. Lui non lo sa. Si calmi. Ci sono due fattori costanti nelle difficoltà che abbiamo incontrato. Primo, siamo ancora tutti vivi. Secondo, John Koenig è sempre stato al comando. Non vedo ragioni per dubitare del suo operato adesso. Ma sostiene l'assurdo. Davvero? Lei non l'ha vista questa Arra. Ma Arra ha convinto John Koenig. E per quello che mi riguarda non ho alcun motivo di metterne in dubbio le decisioni. Sono contro ogni logica e ogni calcolo. Realtà, calcoli. Lei crede sempre e solo al computer. Sia la logica che i fatti sono contro Arra. Mentre la convinzione del comandante non è basata sui fatti, ma sulla fiducia. E anche noi possiamo averne in lui. Ma l'operazione Onda d'Urto l'ha proposta lei. Sì, è vero. E ora dico che va annullata. Paul, annulli l'operazione Onda d'Urto. La riunione è conclusa. Paul, deve pensarci lei adesso. Male da radiazione, allucinazioni, disorientamento, gli stessi sintomi di Carter. È un male definitivo. Non lo so. Alan ne è ancora affetto. John dovrà essere rinchiuso nel suo appartamento e trattato con sedativi. Procediamo con l'onda d'urto. Il conto è a 6 ore e 32 minuti. Provvedi tu a John. Sì. Sorveglianza? Qui sorveglianza. Identità? Dottor Russell, mandatemi subito due agenti a rapporto al centro medico. Realtà, calcoli. Realtà, calcoli. Realtà, calcoli. Lei... Realtà, calcoli. Realtà, calcoli. Thank you. lipstick gloss. He was Jelly Roll. It was February. I was cold and I was hard. Dashboard, I can see my spinal cord rip apart. It's raining glass like a field storm. Every promise I've sworn to. I can see my spinal cord swing high. It's raining glass like a fever storm. Every promise I've sworn generatori lavorano alla potenza minima. Attivare gli schermi antiradiazioni a medio regime. Settore tecnico. Bloccare tutte le rampe di lancio. Evacuare la zona manutenzioni e decomprimere. Ricevuto. Cariche nucleari innescate. Pronte al contatto. La tua gente ti ha tradito, John Koenig. Tradito. Computer, blocca la porta! All right! Listen, girl! It's time you learn your place in this world! You're telling me you got it wrong. Well, I'm telling you now I've had enough. I work all day to keep you clean. understand. Yeah. E ora ho bisogno del tuo aiuto. Arra. Arra. Arra. Aiuto. Dottor Mattias! Arra. Mi ha chiamato. Dove? Anche lei la vede. Ala, mi deve aiutare. Faremo così. Pronti al contatto. Due minuti e 59 secondi. Quando accadrà, quella gente si trasformerà in un'altra forma di vita. O di morte. Ascoltate, dovete credere. È l'unica speranza per sopravvivere. L'operazione Onda d'Urto ci distruggerà. Dobbiamo aspettare e non fare niente. John, dammi la pistola. Bene, anche tu hai tentato di tradirmi, ma non si può tradire, Anna. L'operazione Onda d'Urto non ci sarà, capito? E allora moriremo di certo. La spinta gravitazionale sta aumentando rapidamente. Dobbiamo farla esplodere. John, ti prego. Lascia che ti aiuti. Credi che io sia infetto dalle radiazioni, vero? Sì, John, sia tu che... Non sono le radiazioni. Arra ha salvato Adam. E adesso salverà tutti noi. John, puoi credermi. La scienza medica... Perché tu non vuoi credere a me? Helen, non farlo. Paul! qualche istante moriremo tutti. Anticipo la mia morte solo di qualche secondo. Mi uccida, se vuole così. Immediato sui danni. Sezione tecnica, controllate i danni e iniziate le riparazioni. Centro medico, preparatevi ad accogliere i feriti. Joe, perdono. Era giusto. Avevate ragione. Se non l'aveste fatto, ve ne avrei chiesto conto. Ma niente. Ellen, se tu fossi stata su quell'astronave e fossi tornata con una storia così incredibile, sarei stato un pazzo a darti retta. Com'era possibile immaginare che un pianeta su una rotta di collisione non ci avrebbe distrutto? Ma solo sfiorato. Dammi la pistola. Allarme rosso. Allarme rosso. Dammi la pistola. Una serie di carico nucleare. Allarme rosso. Dammi la pistola. Mr. Hitler, tell me, what are you going to do? Declared war on Uncle Sammy. Bit off more than you can chew. Dig a hole in the meadow. Dig a hole in the cold, cold ground. Dig a hole in the meadow. Trouble, there was sorrow, and the bomb. servono 12 esplosioni nucleari per provocare una reazione a catena. Dammi la pistola.